24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca! Me l'aspettavo sì l'incontro, nel senso che non immaginavo che avvenisse perché nessuno lo sapeva, ma dal punto di vista politico istituzionale Renzi ha scelto Berlusconi come principale ed esclusivo alleato, di fatto ascolta più Verdini di me, per intenderci. Beh, Renzi in questa fase, sulle riforme. Se vanno i microfoni magari. Allora, questa è la mia voce, cari tutti, questa è la mia voce. Che dobbiamo fare? Mi volete così? Bene. Non mi volete così? E mandatemi a casa a dormire. Fate pure una petizione. E a me sta bene tutto. Buongiorno, buongiorno. Questa è 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan. È la 48esima settimana decisiva che si chiude per la riforma elettorale e per l'abolizione delle province. Sì, sì, io continuo a contare. I microfoni a Radio 24, quello principale, non si accende. Vediamo se si accende. Non si accende. Sto usando un altro microfono, si sente bene? Sa. 1, 2, 3, prova. Sa. Si sente bene, Peter? Abbastanza, dice. Allora, saluto Peter Bescapè con questa voce, comunque, che si sente bene o non si sente bene, chi se ne frega. Saluto Miriam Lucchetti in redazione, era Pippo Civati, quello che parlava prima, dire Renzi ascolta più Verdini di me. Sono drammi della politica. Intanto io alle 6:33 minuti voglio aprire il Parlamento. A un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento. È altro che caffè, qui ci vorrebbe un po' di quel miele che la regina Elisabetta ha portato al Papa. Sì. Si è presentata al Papa con del miele, delle uova e del whisky. E il Papa invece ha contraccambiato con una boccetta di lapislazzuli sormontata da una croce argento per il royal baby George. E la regina Elisabetta ha detto ne sarà felice. Ma c'ha un anno. Infatti poi ha aggiunto quando sarà un po' più grande. Va bene, io voglio salutare il mio pronto soccorso. Intanto Paolo Del Debbio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Conduci tu, per favore. Sì. Vai avanti. Allora mi dica, Milan, come sta? Insomma, c'ho questa voce un po' così. Oggi c'ho questa voce un po' così. E che dobbiamo fare? È una bella voce. Sì, sì, è una bella voce. Saluto anche Vladimir Luxuria. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, io invece una brutta voce sempre, purtroppo. No, ma come una brutta voce sempre? Allora, di che vogliamo parlare? Di che vogliamo parlare? C'è un giallo, ecco, io l'ho trovato sul Secolo XIX. Guardate che questo è un giallo clamoroso, che il Secolo XIX dice a pagina 7. Pare che Silvio Berlusconi sia ricoverato all'ospedale San Raffaele da ieri per accertamenti al ginocchio. Il problema è questo, il Secolo XIX subito dice attenzione, c'è il giallo. Perché se per caso, puta caso, si trovasse ricoverato anche il 10 aprile, il giorno in cui i giudici devono stabilire se mandarlo ai servizi sociali e agli arresti domiciliari, che succede, caro Del Debbio, complottone in vista? Questo è magari come... gli fa male davvero il ginocchio e basta. Sì, sì. Beh, questa è la versione più, come dire, ufficiale... Però, non lo so, non lo so, che ne so io del ginocchio di Berlusconi, mica alle 6:30 di mattina. Su. Anche questo è vero. Ho un problema anch'io al ginocchio sinistro. Ma, insomma, sicuramente Vladimir Luxuria sa tutto del ginocchio di Berlusconi, quindi no, forza. No. Non mi chiedere degli organi di Berlusconi, perché insomma non è che sia così. esperta, però se posso dare un consiglio a Berlusconi, secondo me magari gli fa male davvero il ginocchio, perché strategicamente e per una campagna elettorale anche per le europee, che lui sia in ospedale non è che sia così redditizio, mentre se lui facesse i servizi sociali in un ente benefico, secondo me lui riuscirebbe a cavalcare questa cosa per fare la persona che aiuta la società e quindi in qualche modo ne potrebbe ricavare vantaggio anche per le europee. Addirittura. Ma che vantaggio, certo. Voglio dire? Ma scusa, oggi il Corriere della Sera racconta, dovesse essere affidata ai servizi sociali, avrebbe delle regole da rispettare. Non può uscire la notte, non può spostarsi, non può frequentare tossiche. Perché la notte non lo so. Che fa? Ma non lo so, no, però ci sono anche altre cose. Non può frequentare tossicodipendenti, non può fare questo, non può fare quest'altro, non può andare su, non può andare giù. Insomma, sono un po'... A lei le risulta che Gianni Letta, Federico Fornieri, siamo tutti tossicodipendenti? No, questo no, però voglio dire, non può avere libertà di movimento, su, non può fare i comizi, non può andare... Ma basta una foto, le foto opportunity, basta vedere una foto di lui che entra in un ente benefico per fare attività di volontariato per i servizi sociali... E secondo me la gente dice, vedi com'è bravo, votiamolo. Votiamolo, ecco, va bene. E Del Debbio può... Del Debbio è esperto anche di comunicazione, insomma, come dovesse succedere i servizi sociali, come potrebbe utilizzare e rivolgere in positivo Berlusconi questa cosa? Allora, la questione è la seguente. C'è uno zoccolo duro, tutto maschile, che... Berlusconi lo vota se va ai servizi sociali, se va ai servizi sanitari, se va ai servizi, no? Se va dovunque, va bene? In più, ha ragione Luxuria, se pensassero che è messo in cattività prende meno voti, si sbagliano. Anzi. Ho capito, punto. Però lì c'è una sentenza da eseguire, qualcosa dovrà succedere, non è che può... Dovrà succedere qualcosa, dopodiché questo gruppo, questo diciamo pezzo di elettorato, parte di elettorato, piuttosto consistente, eccetera, Berlusconi lo vede perché si riconosce in lui, nel centrodestra e in nessun altro. E quindi insomma questa cosa ci sarà. Secondo me avverrà così. Sentito avverrà così. Con che tono serio l'ho detto? Perentorio, ma infatti, cioè, è una roba incredibile. Ho sentito che finalmente stavi zitto. Infatti ero qua in ammirazione, in ascolto. Un po' c'è il tema della voce. Un po'. La voce appena se posso stare zitto, sì. Sto zitto oggi, lo dichiaro. Vabbè. Comunque non potrà fare certamente come Renzi. Ma Renzi, l'avete visto? Oggi La Stampa racconta che è partita l'operazione Occupy TV. In media e in video è una rilevazione per La Stampa 5 ore al giorno. Anche questa non è male come strategia, Vladimir Luxuria. 5 ore al giorno per... Se usare il mezzo televisivo, sì. Cioè, se sei uno che quando fa televisione sa come usare la televisione, sa come rispondere alle domande, allora sì, credo che da questo punto di vista, a livello comunicativo, forse è la prima volta che il centro-sinistra ha una persona così capace, proprio da un punto di vista di strategia comunicativa. Quindi lui va da Amici a 8:30, è una persona che ovunque va, comunque riesce a usare la sua capacità comunicativa, c'è poco da fare, lo sa fare effettivamente, questo sì, almeno Del Debbio, grande esperto di comunicazione, no, così per la seconda volta lo ribadiamo, fa bene Renzi andare Del Debbio, che ha scoperto un po' di essere renziano, questo l'ho letto e l'ho sentito alla Zanzara, credo molto bene, molto bene. Detto questo, io diciamo in parte sono le televisioni che vanno da lui, lo cercano, ma si sa com'è queste cose, uno basta che si nega e fa un po' il prezioso invece. Ma insomma, comincia a girare, un giorno vai dalla Blair, poi prima vedi Cameron, poi vedi Blair, poi vai, eccetera, è difficile. difficile che tu sfugga la televisione. Comunque, detto questo, le televisioni vanno da lui e vanno da lui volentieri, perché tra l'altro Renzi, al contrario di altri politici, fa audience e poi fa tutto. A un certo punto in TV ha lanciato la pubblicità quando non sapeva cosa fare. No, ma è vera. Sentite un po'. Ma secondo lei Berlusconi deve poter fare campagna elettorale? Quando Berlusconi mi assumerà come portavoce le risponderò. Nel frattempo deve mandare la pubblicità, che stiamo aspettando? Pubblicità, ma dopo le Cioè, vi rendete conto? Pure il conduttore fa Vladimir Luxuria, ma cosa puoi fare di fronte? Ha lanciato la pubblicità, ha detto Lilli Gruber, devi lanciare la pubblicità. Sicuramente lui vedeva dietro la Gruber qualcuno che gli faceva dei segnali. Che si agitava, esatto. Lui, vabbè, tra l'altro... cominciato con insomma è uno che sa fare TV, radio eccetera. Infatti qua secondo me con sta voce mi sa che mi ruba il posto, c'ha la battuta pronta, c'ha contenuto e sa fare. Sa fare quello, ho capito, ma voglio dire, ma lo vogliamo giudicare politicamente per esempio questa cosa delle province? Allora, oggi ho letto i giorni, ieri mi hanno detto tutti ecco adesso smetti di contare, ma smetti di contare che cosa? Ma le province ci sono oggi o no? Andate nella sede della provincia di Belluno, di Forlì, di non lo so, di Lucca, così Del Debbio è contento, andate lì a bussare e vedete se vi apre qualcuno. Del Debbio aprirà qualcuno oggi alla sede delle province? Sì. E allora a me non mi aprivano neanche prima, no. Ma comunque diciamo il problema non esiste, non ci vado perché me ne frega a me di andare alla provincia di Lucca o sì. Di Milano, no, ho capito, non però non c'ho da sistemare degli edifici scolastici, non partecipo a corsi di formazione, non c'ho buche nelle strade, quindi che ci vuol fare? No, ho capito, però esistono ancora le province. Questa storia che hanno cancellato le province non è vera. Intanto non ci saranno le elezioni a maggio, no? No, sì, in alcune province non ci saranno le elezioni, ma le province sono lì ancora, cioè abbiamo abolito le province. Non ci saranno più le elezioni nelle province. Però gli enti di area vasta, non vediamo, si capisce. Vediamo. Oh, Del Debbio, Luxuria, Del Debbio sta diventando renziano, che dobbiamo fare? Cioè, non... No, comunque anche qui c'è la strategia comunicativa di Renzi, perché comunque i giornali tutti dicono adesso le province sono state abolite, no? Sappiamo che per l'abolizione delle province ci vuole la riforma del titolo quinto, quindi bisogna ancora aspettare. Quindi sta passando proprio da un punto di vista comunicativo che un depotenziamento, perché effettivamente c'è adesso un depotenziamento, è passato come abolizione, quindi anche questo fa parte della strategia comunicativa, no? Anche questo sì, però io come sapete ho un idolo indiscusso, Renato Brunetta, il Brunetta del giorno, cara Vladimir Luxuria, caro Paolo Del Debbio. È un golpe, ha detto tante cose insomma, però soprattutto ha fatto, anzi vi voglio fare questa domanda, voi avete un animale, Paolo Del Debbio, hai un cagnolino? No, sono allergico al pelo del gatto, del cane, del cavallo e agli acari. Ecco, subito, vedete che si capisce da queste cose che non è più berlusconiano. Io ho altre allergie che non posso ora comunicare perché no, vabbè, sono cose abbastanza riservate. C'è la privacy, assolutamente. Sì. Vladimir Luxuria ha un cagnolino, un gattino? Ho una scatola di tonno, vale qualcosa? No, okay, una scatola vale mezzo voto forse, mezzo voto. Cioè siete posso due... prendere i voti delle persone che mangiano leggero, dai. Ma no, ma voglio dire, siete due anti-berlusconiani, non amate gli animali, non... No, li amo, ma gli animali. Ma sono allergico, cosa ci devo fare? Io li amo, solo che sono sempre in viaggio, come faccio a tenere degli animali? È Del Debbio allergico, però arriva il do-do act. No, l'avete vista questa, invece del Jobs Act, Brunetta ha fatto il Do-Do Act, prendi un cagnolino e ti diamo 200 euro di sconto della tassa sui rifiuti del comune, ecco. Del comune europeo. Quindi sentiamo Brunetta. Il Do-Do Act, stiamo alle elezioni. Lei è quasi... un cane, lei è un cane o un gatto? Io no. Benissimo, allora io ho un cane e l'altra sera l'ho portato a fare la passeggiata notturna, si è perso o l'ho perso, sono stato male, poi è tornato. Allora, questo vale per 10-20 milioni di famiglie italiane. Ecco, Luxuria, è stato un momento Brunetta. No, Lessi, non ha detto la verità. No, non ha detto la verità, perché secondo me è il cane che ha portato a fare la passeggiata a Brunetta. No, dai. Ma no, dai, questa no. Ma no, dai, poi dopo si arrabbia, poi si arrabbia. Comunque, oltre ai cagnolini c'è anche le dentiere, no? Le dentiere scontate, questa è un'altra strategia. Sentite ancora Brunetta. La politica deve interessarsi di tutto, come deve interessarsi delle dentiere. È l'altra cosa che volevo chiedere. Delle dentiere, ma lo sto anticipando io. Non vogliamo chiamarle dentiere, il lavoro del dentista, diceva quella pubblicità, ma vogliamo parlare di queste cose. Io penso che un anziano che non possa permettersi la dentiera o che la sua mutua gliela prometta tra 6 anni o tra 5 anni è una persona infelice che sta male e non è mica giusto. E non è giusto. Allora, Paolo Del Debbio, grande esperto di comunicazione, questo no, quando... soprattutto grande esperto di dentiere. È vero. Come dire? No, perché come si ricorda Luxuria? È vero, sì. Io in trasmissione mi sono occupato di molti vecchietti a cui mancava dentiere e li abbiamo fatti avere i soldi per farlo. È vero, no, questo me lo ricordo. Ma me lo ricordo anche. Insegnare a me? Non lo so, infatti, vediamo a insegnare. Quindi questo... Arriva sempre secondi, terzi, Vladimir, mi piacerebbe proporre che magari i politici rinunciano al rimborso sanitario, diciamo, delle dentiere, odontotecnico, ecco, quei soldi risparmiati si possono regalare delle dentiere delle persone. Pensavo che rinunciassero, speravi rinunciassero alle dentiere. No, ma vorrei capire quanto porta in termini di voti Del Debbio questo, cioè il cane e le dentiere. Questo non lo so, perché bisogna vedere, poi gli italiani vogliono vedere, Certo. Quindi le dentiere, i signori e le signore che non ne hanno le vogliono vedere. Le vogliono toccare, sentire. Le vogliono toccare, vogliono sentire, eccetera, eccetera. Quindi non lo so. Non lo so. Questo non lo so. Lasciamoci con questo dubbio. Renzi può lanciare il traffico? No, la pubblicità. Possiamo far lanciare a Renzi la pubblicità? No, la facciamo lanciare. Allora la lanciamo noi. 24 mattino. Montanelli, all'epoca del primo trattore trasformato in carro armato, disse, mamma mia che sciocchezza, dice, i veneti è gente che dice, mi no vai combattere. A volte io penso, parlando con la gente, che la gente è esasperata. Noi abbiamo la raccolta differenziata da 20 o 25 anni, secondo delle province. Ma perché io devo pagare, scusate, le immondizie di Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, che le mandano in Germania dove le bruciano? Ma le paghiamo noi e la gente è stufa, è di questo che forse bisogna tener conto. Ma i veneti, come diceva Montanelli, mi non va a combattere. Caro Alessandro, dedico un saluto a tutti i patrioti friulani che il 3 aprile festeggiano i 937 anni dalla nascita della piccola ma amatissima patria friulana. Di patria ce n'è una e come lei non c'è nessuna. Saluti a tutti dal Friuli, Mandi! A maggio si terranno le europee, si scavano profonde le trincee, fra quelli che lasciare vogliono l'euro e chi li accusa che sono tutti in euro. Fra tutti i contendenti sta a vedere chi poi si prende un calcio nel sedere. Io a me che sono nato nel 70, m'han detto stai sereno, fischia e canta, m'han detto stai tranquillo e sta sicuro, lavoro non ne manca, c'è un futuro. E ora che sono un disoccupato, io c'ho un pensiero che toglie il fiato, ci ho messo impegno, parevo un mulo e ora sospetto di prenderla in culo. Vabbè, abbiamo capito la chiosa, ho capito Del Debbio che si andava lì e... Le rime vanno rispettate. Le rime vanno rispettate, ho capito tutto. Le rime baciate. Allora, anche voi pensate come molti, come sondaggi, che il Movimento 5 Stelle possa essere il movimento che è grande, è un movimento grandissimi amici di Del Debbio, cioè quelli sono proprio. Quelli proprio sì. Sì. Amano Del Debbio alla follia. Che possa davvero fare il pieno di voti alle europee Del Debbio? Non lo so. Francamente non lo so questa volta, avrei qualche dubbio. Vladimir? E dato da questo, non è che ce l'ho così perché l'ho visto nella palla di vetro, dato dal fatto che sono stati piuttosto inefficaci e che di fronte a questo attivismo di Renzi forse mostrano un po' il fianco. Ah, attenzione, l'analisi di Del Debbio. Vladimir Luxuria che dice? Beh, insomma, effettivamente anche le ultime amministrative rispetto ai sondaggi non è che hanno avuto un grande exploit. E poi effettivamente i partiti che sono euroscettici sono tanti, quindi non ha il monopolio di cavalcare l'euroscetticismo solo il Movimento 5 Stelle. Di sicuro posso prevedere il successo del Movimento 5 Stelle alle comunali di Modena, dove secondo me ci sarà un prossimo sindaco del Movimento 5 comunali Stelle. Cosa succede? Sì, cosa ne sai? Che lì c'è Giovanardi che si è candidato, quindi io sono molto attenta, capisci? Vladimir Luxuria andrà a fare campagna elettorale per il Movimento 5 Stelle. No, non mi mettere in bocca cose che non ho detto. No, pur è il nuovo Peppone Don Camillo. Esatto, pur di non mandare Giovanardi sindaco. Secondo me Giovanardi diventa sindaco a Modena col pieno di voti e Vladimir Luxuria non potrà mettere piede sul suolo di Modena e provincia pure. Neanche un ognocco fritto con un lambrusco. Esatto. Questa sarà la prima ordinanza del sindaco Giovanardi. Il sindaco Giovanardi farà questa ordinanza qui. Vladimir Luxuria non può mettere piede sul suolo modenese. Noi ce la porteremo noi, Milano. Esatto, andiamo lì portando Vladimir Luxuria su una portantina portata con una regina. Eccola come la qui, regina, ecco vedi. Eccola. E io porto in omaggio porterà uova e miele a Giovanardi. Esatto, cosa porteresti a Giovanardi come incontro istituzionale? Ma lascia perdere che ora ci vanno. Vabbè dai, cosa Vladimir, cosa... Porterei forse pace una bottiglia. Una bottiglia di vino. Ma quello c'era già, dai, l'ambrusco, insomma. Fatta come? Gli porto 5 preservativi e gli dico goditi la vita pure tu, va. No, ecco. E in più, sempre la bottiglia di vino, però. Sempre, certo. Però vino. Serve a chi va con lui, la bottiglia di vino. Ah, va bene. Sentiamo allora Beppe Grillo, cioè prima, da bere prima per... Vabbè, questa l'ho capita. Beppe Grillo, che è convinto di stravincere. Noi vinciamo col 37%. Se andiamo al ballottaggio, noi e il PD, la destra cosa fa? Chi appoggia? Al PD. Non lo so se appoggia al PD. Non lo so se appoggia al PD. Se tagli fuori Berlusconi da questa corsa. Non lo appoggio. A me piacciono poi queste interviste o finte interviste del Debbio che ci sono a fianco quelli quando ti fa le domande e la gente quello che veramente io spero gli italiani capiscano prima, come si dice a Roma, sfanculato quel povero Bersani, no, che gli chiedeva eccetera. Ricordate lo streaming, poi tutti non ci alleremo mai con nessuno, ora prenderemo il 37% bello preciso, in più si aspetta i voti del centrodestra al ballottaggio. Ma capisci? Parlando è un uomo che non c'è. E c'è chi lo vota. Queste sono la libera scelta. Ecco, sì. Carità, diventeranno sempre più amici del Debbio agli esponenti del Movimento 5 Stelle. Dopo vi comunico. Ma visto, la moglie ha detto io del Debbio lo odio. No, veramente? Sì. Questa in una intervista ha detto io del Debbio lo odio. Lo odio, che brutta roba questa. Cioè. Qua il giorno che mi affidarono il microfono di legno. Non mi affidarono. Io non l'ho mai vinto. Premiarono. Io non l'ho mai vinto, questa cosa mi fa un po'. Ma ci arrivi presto. No. No, ma perché alle 6:30 Grillo dorme. per quello perché dorme. Non è mica un poveraccio come noi. Va bene, Vladimir Luxuria del Debbio, grazie. Intanto, Vladimir, preparati, che insomma, quando diventa sindaco Giovanardi, tutti a Modena a fare un colpo di stato, altro che i veneti. Conquistiamo Modena, Vladimir Luxuria. Conquisteremo Modena, tutti insieme.

pochi cibi basici. Cioè, il giornale scrive una pagina per dire che mangiando poco si dimagrisce. Ma porca... Ah. Cos'è questa? Amanda Lego. Amanda Lear mi salva, grazie Peter, mi scappa. La Amanda Lear dell'informazione. La carta costa. Mattino. Alle 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, ancora con questa voce un po' così, abbiate pazienza cari ascoltatori per oggi. Allora, il procuratore capo di Tempio Pausania, Domenico Fiordalisi, ieri in un'intervista alla Stampa diceva così: io faccio rispettare la legge e dunque se c'è una costruzione abusiva e c'è un'ordinanza del giudice che dice di abbatterla, io la faccio abbattere. È una questione di legalità, di rispetto delle regole e di prevenzione, perché così si diminuiscono anche tutti gli altri reati. Allora, a me sembra una dichiarazione talmente ovvia, quasi scontata, banale, che in un paese normale tutto ciò non sarebbe una notizia, ma l'Italia per tanti versi non è un paese normale. Ci siamo occupati spesso dell'abusivismo in Italia, di regioni come la Campania dove ci sono tantissimi edifici abusivi. Questa volta al centro delle cronache c'è un luogo meraviglioso della nostra penisola, l'isola della Maddalena in Sardegna, dove nei giorni scorsi sono comparse appunto le ruspe per eseguire delle ordinanze, abbattere alcune costruzioni abusive, ma contro le ruspe si è mosso un movimento che ha coinvolto i cittadini interessati, ovviamente i proprietari di queste costruzioni, ma anche amministratori comunali, società civile, la chiesa. In prima fila, per esempio, contro queste demolizioni c'è il sindaco della Maddalena, Angelo Comiti, che saluto, buongiorno sindaco. Buongiorno. E benvenuto. Saluto anche il parroco che da 30 anni alla Maddalena e nella sua parrocchia, tra l'altro mi risulta esserci molte delle costruzioni in questione, Don Domenico De Gortes, buongiorno Don Domenico. Buongiorno, buongiorno, salve. E saluto anche Laura Biffi, che è curatrice dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Lega Ambiente, buongiorno Laura Biffi. Buongiorno. Allora, sindaco Comiti, perché lei trova di buon senso queste dichiarazioni del magistrato, cioè normali se c'è un'ordinanza e se c'è una costruzione abusiva va abbattuta oppure no? Ma guardi, i magistrati e in questo caso il dottor Fiordalisi sicuramente fa il proprio dovere, perché sta mettendo in esecuzione delle sentenze passate in giudicato che gli ha appunto messo sul tavolo il tribunale. Quindi il compito del magistrato è quello di eseguire le sentenze del tribunale. La prima obiezione che mi sento di fare, lei ha detto che questa dovrebbe essere una prassi normale, ma in Italia diventa una notizia. Quindi la prima obiezione che mi sento di fare è che se questa procedura venisse adottata da Lampedusa sino alla Val d'Aosta non ci sarebbe niente di strano, ma non mi risulta che queste procedure vengano messe in esecuzione in questo modo in tutto il territorio nazionale e tantomeno in Sardegna. Ecco, quindi la giustizia non può essere affidata al senso di responsabilità del magistrato di turno. No, questo dovrebbe sì, però, essere un fatto originario. Sì, certo, però laddove c'è un magistrato che fa applicare la legge si dovrebbe dire, beh, meno male, almeno c'è un posto dove... capisco che dice, vedendola vedendola da una certa parte, dice ma come, noi siamo gli unici che dobbiamo pagare? Però è una questione di legalità, sindaco. No, sì, sicuramente è una questione di legalità, ma è un po' come i tagli lineari che produce il governo su altri terreni, dove considera l'Italia uguale da sud a nord, e questo non è vero, perché l'abusivismo alla Maddalena ha una sua peculiarità. Intanto non stiamo parlando di un abusivismo di speculazione, punto primo. Non ci sono ecomostri, non ci sono abusi realizzati da VIP, qui siamo in presenza di un fenomeno di abusivismo che è stato messo in campo, sbagliando, su sì, questo non c'è ombra di dubbio, da una percentuale minima dei miei concittadini, perché non vorrei fare neanche passare il messaggio che la Maddalena collettività di abusivi. Anche perché, e qual è la peculiarità, mi scusi, di questa abusivismo? Allora, la peculiarità è che, punto primo, noi abbiamo un territorio esiguo dove l'edificazione è consentita solamente nel 40% dell'isola madre, non in tutto il territorio, che è fatto da isole foranee sulle quali, per nostra volontà, abbiamo deciso di non edificare. Sì. Attraverso l'istituzione del Parco Nazionale, che è avvenuta nel 1997, ecco, questo ha messo fuori gioco i cittadini di La Maddalena dal poter usufruire dell'ultimo condono, che è del 2005. No, ho capito, cioè lì c'è poco spazio per edificare, e quindi lei lo definirebbe un abusivismo, come si definisce in alcuni casi, di necessità? No, di necessità. Ci sono alcuni elementi che poi portano la gente, tipo la lievitazione dei costi, che noi già subiamo perché siamo un'isola nell'isola, fra l'altro. Sì. Quindi costruire La Maddalena rispetto a Palau, ad esempio, costa di più, ma non è ho capito, ma cioè, sindaco, come, cioè, capisce che con queste, mi faccia sentire anche il parroco, comunque lei qualcosa ci ha già detto del perché è peculiare la situazione alla Maddalena. Don Domenico, lei da 30 anni lì, è vero che ci sono alcune delle costruzioni sono proprio nella sua parrocchia, perché lei era in prima fila a difendere i cittadini contro le ruspe? Allora, ero in prima fila insieme con l'altro parroco, perché noi come parroci vogliamo essere vicini ai cittadini che, pur avendo sbagliato, però sono in sofferenza, e quindi volevamo essere vicini a loro e partecipare anche a quella, come dire, a quella fermare simbolicamente le ruspe. Per che poi un centinaio di persone con tutti i poliziotti è proprio una cosa simbolica, sì. Soprattutto per sottolineare l'invito a riflettere, a dinazionare, a sospendere per un poco questi abbattimenti, sì. Perché alcune case sono prime case. Ho capito, per cui, Don Domenico, però sono illegali. Cioè, sì, sono illegali. Infatti noi dobbiamo educare la gente alla legalità, però la nostra presenza voleva essere un appello, diciamo, ad una comprensione, di umanità, comprensione, ecco, di umanità. Un po' di umanità, cioè, capire. Perché, come dice il Vangelo, no, la legge è per l'uomo. Non l'uomo per la legge. Però sa, mi scusi Don Domenico, la solidarietà, l'umanità, lei da sacerdote è giusto che la dia, la vicinanza, però poi le leggi, cioè non è che possiamo applicare la legge del Vangelo sullo Stato italiano, ecco, questo. Ma io credo che lo stesso diritto suggerisce che l'umanità, l'uomo sia al primo posto, perché se abbattere delle case vuol dire buttare la gente per la strada, in alcuni casi è così, non tutti per carità, certi abusi è giusto eliminarli, ecco, ma prima di buttare la gente sulla strada, vedere se c'è un'alternativa, una soluzione, perché prima è l'uomo, poi la legge. È chiaro, va bene, chiara anche la sua posizione. Allora Laura Biffi, le abbiamo proposto due posizioni molto chiare del sindaco, del parroco, adesso al di là della questione della Maddalena, sulla quale le chiede un parere, è un po' in tutta Italia, quando affrontiamo questo argomento esce fuori la questione dell'abusivismo di necessità. Ha sentito anche il parroco dire che non si possono calpestare anche i diritti umani delle persone, di buttarle fuori casa. E quindi come la risolviamo? Allora, intanto vorrei rassicurare il sindaco della Maddalena, che definisce l'abusivismo alla Maddalena un abusivismo peculiare. Purtroppo non lo è. Purtroppo non lo è, definiscono peculiare il proprio abusivismo, l'abusivismo sul loro territorio, anche i sindaci di Ischia, i sindaci del Salento, i sindaci di alcune delle più rinomate località di mare in Sicilia, quindi diciamo di peculiare ai noi non c'è nulla. Forse è peculiare il fatto che ci si ostini a difendere l'illegalità di una minoranza di cittadini, perché è pur sempre una minoranza di cittadini italiani, che con furbizia si è costruito la casa abusiva in barba a chi ha rispettato la legge, ha pagato le tasse, ha costruito dove poteva e si è costruito con i propri soldini la casa legalmente. È piuttosto singolare anche questa assolutamente non originale, ma diciamo da noi molto contestato, ricorso alla definizione di abusivismo di necessità. Io spesso chiedo proprio ai sindaci che in Campania, nella zona del Napoletano, ma soprattutto a Ischia e a Procida, questa è la difesa d'ufficio più riprodotta, chiedo proprio loro di fare un censimento delle case, cosiddette prime case, per verificare che siano l'unico tetto, diciamo, sotto cui queste famiglie si possono riparare. Nessuno fino ad oggi ha proceduto a fare. No, ma poi io vorrei capire qual è, lei ha capito, Laura Biffi, qual è la definizione di necessità? Cioè tutti abbiamo necessità di avere un di tetto. Seconda però... casa? Di no, seconda no, no, casa? Ma dico anche come prima casa. Allora. Cioè se uno non ha una capacità economica per acquistare una casa, e non c'è scritto da nessuna parte al mondo che uno debba avere una casa, cioè di proprietà. Questo siamo d'accordo, sottoscrivo. Anche perché moltissime persone, non potendosi permettere la costruzione di una casa, l'affittano. Vanno a vivere in affitto. Dopodiché esistono anche persone indigenti, in difficoltà, con particolari problemi, a cui la politica, che invece si ostina a difendere l'illegalità delle case, dovrebbe dare una risposta. No, ma infatti la questione è proprio questa, caro sindaco Comiti, non è che nessuno vuole buttare le persone per strada per il gusto disumano di buttare le persone per strada, ma se uno non ha i soldi per comprarsi una casa, si iscriverà alla lista del comune, avrà diritto a una casa popolare se c'è la politica che dà una risposta seria, cioè questo il metodo legale per avere una casa e per avere un tetto sotto cui dormire, altrimenti così sindaco Comiti si rischia di far passare dentro tutto, no? Si comincia così. No, assolutamente, guardi, io non ho mai difeso gli abusivi, non difendo l'abusivismo fine a se stesso, anzi lo ritengo un reato esecrabile, ripeto, ci sono delle peculiarità che occorre in qualche modo esaminare. E una peculiarità di La Maddalena, e rispondo alla dottoressa Biffi, è quella che noi un censimento lo abbiamo fatto. Noi abbiamo in adeguamento un piano urbanistico comunale rispetto a quelle che sono le norme del nostro piano paesaggistico regionale, che è stato definito non da me, uno dei più avanzati, dei migliori addirittura a livello europeo, siccome stiamo adeguando il nostro piano urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale, che prescrive in un articolo preciso che occorre fare una radiografia del territorio e vedere l'edificato dal 1950 in poi, noi questa indagine l'abbiamo già fatta. Che cosa abbiamo chiesto al procuratore? Che non è un mostro, si badi bene, io non definisco il dottor Fiordalisi un mostro, anzi ho già detto che sarebbe stato opportuno che questi comportamenti fossero stati messi in campo in tempi passati, in tutta Italia però, perché altrimenti veramente noi non possiamo avere qui in gallura Zorro e poi dalle altre parti non lo so chi. Ma ho capito. Gente che mette... No, mi faccia finire perché è un concetto importante questo. Noi abbiamo chiesto alla Procura della Repubblica un raffreddamento delle procedure per fare le cose seriamente, della serie. Noi possiamo mettere in campo dei piani di recupero onerosi per chi poi ha costruito abusivamente. E guardi, la stragrande maggioranza degli abusi alla Maddalena, che non sono poi così tanti, e pagano la nettezza urbana, pagano le tasse, le pagano. Questa cosa è anche bizzarra, che una casa abusiva possa molto pagare. Bizzarra, però è anche molto bizzarro che in Italia ci sono alcune sacche e alcune caste che non vengono mai messe nel sacco. Come hanno fatto questi miei concittadini a frazionare dei terreni a lotti di 1000 metri quadri? I notai non li chiama mai in campo nessuno. È chiaro che il punto... I poteri sostitutivi che si dovevano mettere in campo in questi 30 anni... Sindaco Comiti, è chiaro che la situazione che si è prodotta perché tanti livelli non hanno vigilato, però nel momento in cui c'è una situazione, lei dice io sono contro l'abusivismo, lo considero una cosa esecrabile, non difendo gli abusivi, però a La Maddalena ci sono alcune peculiarità. Ecco, è questo che gli ascoltatori dicono. Ecco, vabbè, ma è sempre il solito distinguo che in questa situazione c'è qualcosa da salvare. Comunque andiamo un attimo in pubblicità, riprendiamo tra poco anche con la vostra chiamata, se volete 800 24 00 24, l'Italia e gli abusivismi edilizi. Tra pochissimo siamo ancora con voi. 24 mattino. Eccoci qui alle 8.36 minuti, stiamo parlando dell'abusivismo in Italia, in questo caso alla Maddalena, con il sindaco Angelo Comiti, il parroco Don Domenico De Gortes e Laura Biffi di Lega Ambiente. Laura Biffi, che considerazioni si possono fare? Sentito, insomma, comunque ci sono delle peculiarità, questa è la questione. Sì. Che Allora, molto rapidamente, rispetto a quello che diceva il sindaco Comiti poco fa, una piccola precisazione: io parlavo di censimento delle famiglie, diciamo così, bisognose, non un censimento urbanistico per vedere come ridisegnare il territorio e provare a sanare quello che non è stato possibile sanare con ben 3 condoni edilizi. Ricordiamoci, in questo paese ci sono stati 3 condoni edilizi. Evidentemente quello che oggi le procure, poche, troppo poche in Italia, demoliscono sono case che sono state costruite in maniera tale da risultare insanabili per ben 3 condoni edilizi. Quindi vuol dire che proprio non hanno nessun appiglio per essere sanate. Dopodiché il sindaco diceva: ah, le procure distratte, dove è stata la procura fino ad oggi e dove sono le procure nel resto d'Italia? Però mi scusi sindaco, la legge stabilisce che il primo compito rispetto all'abusivismo edilizio di monitoraggio e di repressione del reato spetta ai comuni. Io domando dove è stato il comune, non dove sono state le procure. Spetta al sindaco. C'è da dire che, lo stesso magistrato, ha detto ieri, intervistato dalla stampa, ha chiamato la responsabilità del comune di centinaia di abusi trattati con provvedimenti amministrativi conclusi con ordinanza comunale di abbattimento, ma nessuna demolizione è stata avviata. Il compito ora spetterebbe a regione. Esatto. Capiamo bene che accusare le procure di latitanza, quando poi questa accusa avviene da parte delle pubbliche amministrazioni, è un po' discutibile. Guardi, molto molto sinteticamente, il ragionamento che fa il sindaco, le dicevo, purtroppo non ci è nuovo. Noi ci scontriamo, avendo molta attenzione a questo tema, tanto che abbiamo una campagna che si chiama Abbatti l'abuso, che prova a prendere il problema dell'abusivismo proprio dal punto di vista delle mancate demolizioni in Italia, cercando soluzioni al problema e soprattutto cercando di portare in luce i casi virtuosi dei piccoli pezzi d'Italia, anche qualche sindaco, pochissimi in realtà, che fanno rispettare la legge a costo di tanta impopolarità, perché lo sappiamo, demolire le case non permette di fare un secondo mandato elettorale. Non porta voti. Esatto. Il problema è che se la questione dell'abusivismo edilizio è ormai, diciamo, il biasimo dell'abusivismo edilizio, ormai è una questione che sul piano culturale ha abbastanza sfondato. Lo stesso sindaco dice: io considero il reato di abusivismo edilizio, perché di reato si tratta, un reato esecrabile. Dopodiché la questione del ripristino della legalità, che passa attraverso gli abbattimenti, ancora sul piano culturale in questo paese non ha sfondato. Non c'è. Il fronte della resistenza è compatto. Allora fatemi sentire due ascoltatori. Luigi da Napoli, buongiorno Luigi. Buongiorno, grazie per l'occasione. Volevo un poco portare l'occasione per anche un piccolo sfogo, se mi consente. Perché, prego. Appunto, qui a Napoli assistiamo quotidianamente, insomma, a continui abusi, piccoli, medi, grandi, e non solo in località turistica, anche in come Ischia, Capri, ma anche in città. Non vorrei fare una discussione, diciamo, brevemente, però comunque tutto questo porta ad un sentimento di illegalità diffusa, cioè dove è evidente la connivenza di tutti gli strati sociali, insomma, da chi usufruisce dell'abuso, quindi chi diciamo illegalmente va a costruirsi una casa, che spesso è la seconda, la terza, oppure chi ovviamente si arricchisce con le costruzioni, i politici che hanno il loro tornaconto. E trovo veramente scandaloso, insomma, che si possa ancora oggi continuare a discutere su questo argomento. Cioè, lei chiaramente, dottor Milan, insomma, fa bene a portarlo. Lei trova incredibile che ci siano ancora posizioni di difesa. No, la ringrazio, vorrei andare da Napoli a Pescara, da Cesare. Buongiorno Cesare. Buongiorno a voi. Grazie dell'intervento. Guardi, io sono perfettamente d'accordo con la vostra ospite e sono esterrefatto dalle dichiarazioni di un sindaco e di un parroco, ma questo è un fatto religioso, non voglio entrare in questo argomento, ma esterrefatto dalle dichiarazioni di un sindaco che a tutti i costi sta difendendo una sua posizione che a mio giudizio non esiste. La legge è uguale per tutti, mi dispiace se qualcuno ha delle difficoltà, ma la legge è uguale per tutti. Non è un'anomalia questo magistrato, l'anomalia sono tutti gli altri magistrati eventualmente o gli altri casi in cui non è stato possibile abbattere le case. Allora sentiamo che così sia il sindaco che il parroco lo rispondono. Don Domenico, intanto lei non crede che con stando dalla parte dei cittadini, che io umanamente posso capire, lei da parroco cosa deve fare? Giustamente confortare anche le persone che rischiano di perdere la casa, ma non rischia questo di alimentare un senso di illegalità diffusa? Cioè dire ci sono anche dei parrocchiani che invece avranno costruito la casa la maggior parte in maniera legale, in maniera... Certo. E queste persone non si sentono, come dire, dice noi che siamo stati stupidi a fare tutto secondo la legge? Ma quando noi stiamo vicini a chi rischia di perdere la prima casa, insisto su questo, noi non vogliamo dire che gli abusi non ci sono stati, gli abusi vanno sanzionati. Io dico al limite se non possono pagare le sanzioni che la casa venga anche sequestrata, ma se uno ne ha bisogno è la stessa cosa, se è sequestrata è come metterli fuori, ma almeno ci possono stare in affitto. Se viene sequestrata dal comune, per dire, almeno ci possono abitare. Buttare giù una casa, ma una casa abusiva, cioè se la legalizziamo, cioè se ne fa carico lo Stato, cioè da una situazione abusiva diventa addirittura un qualcosa di Stato, cioè proprio legalizziamo l'illegalità, così, cioè capisco che è duro, ma una casa abusiva deve essere abbattuta, non è che possiamo renderla legale affidandola allo Stato. O no, sindaco Coviti, vuol rispondere anche lei all'ascoltatore? Ma guardi, io voglio tranquillizzare l'ascoltatore di Pescara soprattutto, che si è molto sorpreso dalle mie dichiarazioni. Io non sto difendendo assolutamente i proprietari di case abusive, che sono le seconde, le terze. Io insieme al Consiglio Comunale intero sono in qualche modo intervenuto nei confronti di questa questione, chiedendo solamente un raffreddamento delle procedure, soprattutto per salvare le prime case, nell'eventualità in cui questo sia possibile, almeno questo tipo di tentativo, perché guardi, questa è una sconfitta per tutti poi alla fine. Sì. Perché sì, è vero, i sindaci, io insomma sono un amministratore di lungo corso, sono ridiventato sindaco dopo 15 anni diciamo di inattività. Io nella mia esperienza precedente, da assessore all'urbanistica di questo comune, ho firmato quasi 100 ordinanze di demolizione. Sì. Allora, e sono state eseguite? Sono state eseguite? No, non sono state eseguite, perché poi alla fine in Italia si innescano i meccanismi dei gradi di giudizio, eccetera, eccetera. Si arriva fino al giudicato e poi alla fine il tempo passa. Io dico che la politica in generale, le istituzioni e in questo caso il comune, la provincia, la regione, a distanza di 30 anni dovrebbero cercare di mettere in campo alcuni provvedimenti possibili per salvare il salvabile. Sì, ma la politica anche lei, sindaco, una geografia specifica del territorio che non è uguale in tutta Italia. Guardate che questo comparto delle isole minori italiane, che spesso e volentieri viene vissuto nella fantasia delle persone come una specie di paradiso terrestre, ha un sacco di problemi. Noi qui siamo un parco nazionale, la dottoressa Biffi diceva in Italia sono stati fatti 3 condoni, di uno i miei concittadini non ne hanno potuto usufruire. Ma nessuno discute di questo, però sindaco la questione è che se lei dice difendo solo le prime case o comunque una sospensione dell'abbattimento delle prime case, è un messaggio magari che non vuol dire è giusto costruire una casa abusiva, questo lo so che lei non l'ha detto, non lo dirà mai, però capisce, anche dire quelli che hanno la prima casa, poverini, dove vanno? E allora andiamo avanti così, ecco, non so cosa dire. Io però vi devo salutare, vi ringrazio Angelo Comiti, sindaco della Maddalena, Laura Biffi di Lega Ambiente e Don Domenico De Gortes, anche lui parroco alla Maddalena. Dopo il traffico ci occuperemo di un tema che affrontiamo spesso ed esce ripetutamente sulle cronache dei giornali, in questo caso sono i vitalizi degli ex consiglieri regionali. Siamo alla regione Lombardia. Voglio salutare intanto Luigi Corbani, che presiede l'associazione consiglieri regionali della Lombardia. Buongiorno Corbani. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, un attimo di pazienza, dopo il traffico sono da lei, perché la regione Lombardia sta cercando di capire se si può fare qualcosa per i consiglieri ex che ricevono il vitalizio, nel senso fare qualcosa vuol dire toglierlo, ridurlo. Tra poco. Allora, le 8:48 minuti, siamo appunto con Luigi Corbani, presidente dell'Associazione Consiglieri Regionali della Lombardia. Mi ha colto questa notizia che abbiamo letto ieri su Repubblica: la Regione Lombardia vi ha convocato, è vero, presidente Corbani? Nel senso che abbiamo avuto degli incontri con l'ufficio di presidenza. Per cercare di capire se si può fare qualcosa per ridurre la spesa dei vitalizi per gli ex consiglieri. Un qualcosa che voi avete maturato per legge, non si discute questo. Il problema, sa, che la legge si può, o meglio, le questioni possono essere anche cambiate, vista anche la situazione di crisi, o no? Certamente, tutte le leggi possono essere cambiate, ma è difficile cambiare delle leggi sulle pensioni in essere. Lei mi insegna che è difficile, per esempio, intervenire su pensioni che magari sono maturate secondo legge a 19 anni, 6 mesi, un giorno, o 35 anni. Beh, oddio, quando si fanno i prelievi magari di solidarietà o... Questo sì, questo esattamente, ma in questo senso c'è una legge dello Stato italiano, che è la legge di stabilità, che i commi 487 e 486 stabilisce dei possibili prelievi sulle pensioni più alte, sui vitalizi, sui compensi dei consiglieri comunali, provinciali, sì, regionali, eccetera. E va bene, questo si stabilisce. Possiamo farle, sì, possiamo farle due conti in tasca, si può chiedere quanti mandati ha fatto, quanto è stato consigliere regionale? Io sono stato consigliere per 5 anni. 5 anni, e per questo godo di un vitalizio di? E maturava un vitalizio a 60 anni, perché allora si andava in pensione a 60 anni, di 2.000 euro senza adeguamento Istat. Okay, quindi vita natural durante non c'è nessun adeguamento Istat. Capisce che tenga conto che la media dei vitalizi complessivi della regione Lombardia, la più bassa d'Italia, ed è pari a 2.700 euro. La media. Ci sono ovviamente dei casi più alti, però lei 2.000 euro, sa, è questo che, però è legge del passato, e mi rendo conto, ma 5 anni di lavoro che producono 2.000 euro di pensione è una cosa che solo nella politica si vede. No, si vede solo nella politica, si vede anche in altri campi, anche perché quella è maturata in relazione a un prelievo del 25% che veniva fatto sulla indennità percepita. No, questo certamente, certamente, voi accantonavate. 25%, non l'8%. No, certo, quindi, però mi scusi, in quali altre professioni uno dopo 5 anni di lavoro può avere un vitalizio di 2.000 euro? Innanzitutto non è solo dopo 5 anni di presenza tenga conto che quasi tutti quelli che hanno fatto attività politica hanno, e soprattutto istituzionale, hanno rinunciato ad una serie di situazioni. Lei ha citato il sottoscritto, per esempio io per quei 5 anni ho rinunciato ad andare in pensione per una legge dello Stato italiano nel 1993, quella consentiva di andare in pensione. Vabbè, però è stato ripagato con uno stipendio da consigliere regionale e con una vitalizia. No, non è che sono stato ripagato, ho svolto un'attività remunerata. Certo, e poi con l'attività, ma no, certo. Ma mi scusi, lei adesso sarà anche in pensione per il suo lavoro precedente? No, non ancora. No, vabbè, andrà in pensione e maturerà una pensione per il lavoro precedente. E in più per questi 5 anni ha una pensione, ha un vitalizio da 2000 euro. Cioè, non mi sembra, se la si definisce una situazione privilegiata, ma non lei, ma tutti coloro che sono nella situazione come lei, non mi sembra scandaloso definirla un privilegio. È scandaloso definirla privilegio, perché questo non deriva da una situazione anomala o da un favore che viene fatto a chi svolge un'attività istituzionale. Chi svolge un'attività istituzionale viene pagato. Viene pagato. Beh, e va bene. Per quel periodo lì rinuncia a tutta una serie, dall'operaio all'impiegato, al libero professionista, al manager, rinuncia a una serie di opportunità che nella sua attività professionale ha. Sì, però è una scelta personale che uno fa, che non impone il medico, sceglie di farlo, poi lei immagina ripresa a fare il suo lavoro, quindi accumulare gli anni per la pensione. No, perché in quel momento lì, quando uno... Cioè le indennità del personale istituzionale sono legate a un principio costituzionale, che è quello del mandato popolare. Nel momento in cui uno ha il mandato, deve essere, come recita la Costituzione, senza vincolo, cioè libero, autonomo, con la possibilità di prendere le decisioni che ritiene più opportune. Ma poi quando ha finito la sua carriera, ma quando lei ha finito la sua carriera da consigliere, avrà ripreso l'attività che faceva prima, immagino, no? No, assolutamente. Ho fatto tutt'altra attività. Poteva farlo, non potevo farlo. Ma come no? Non potevo farlo. Non poteva farlo, vabbè, ma forse è la sua condizione personale. Ci sono molte persone che vanno in aspettativa, fanno il parlamentare, che ne so, 5 anni e poi continuano ritornano a fare quello che facevano la loro attività professionale e hanno perso delle opportunità. Chi per esempio è un lavoratore dipendente ha perso tutte le opportunità per maturare nuove condizioni. E lei non crede però che ne ha acquisita una di un'opportunità, cioè in 5 anni di maturare un vitalizio di 2000 euro? Per lei non è considerato un privilegio, diciamo? No, il privilegio nel senso il rapporto tra la quantità di lavoro fatto e il vitalizio che poi lei ha. Ecco. No, ma con questa logica non si va tanto lontano, perché questo non è affatto un privilegio, è esattamente l'indennità differita. Nel momento in cui uno assume un incarico pubblico di una certa rilevanza costituzionale, come è il parlamentare o il consigliere regionale, ha degli obblighi. Ma certo. Devono essere tutelati. Ma lei in 5 anni, tenendo il 25% dell'indennità, avrà accantonato per questo vitalizio una cifra, diciamo. Se lei vive, come le auguriamo, altri 50 anni, speriamo. Capisce che 2000 euro al mese per 50 anni è ben ripagata questa cifra che lei ha accantonato. Questo voglio dire il senso di privilegio. Ma come per tutti i pensionati, tutti i pensionati, abbia pazienza. La regione non accantona, neanche lo Stato accantona quello che di solito viene accantonato. Sì, ma se un pensionato lavora 40 anni e poi va 800 euro al mese in pensione, capisce che la proporzione tra i 40 anni lavorati e gli 800 euro che prenderà per, che ne so, altri 20-30 anni non è uguale alla proporzione di lavorare 5 anni e ottenerne 2000. Comunque, insomma, questa questione rimane aperta. Io mi devo fermare perché sennò sforo, ma la richiameremo, Luigi Corbani, perché questa trattativa tra regione e gli ex consiglieri continua per cercare di capire dove limare un pochettino. So che di fronte al fatto vi togliamo il vitalizio, voi giustamente, in questo devo dire, se facciamo ricorso lo vinciamo noi alla Corte Costituzionale, diritti acquisiti, e quindi continueremo in questa diatriba. La ringrazio per essere stato con noi, con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Alessandro Marco Tulli. Vi do appuntamento a lunedì, ci sarà anche Peter Bescapel alpino che sta lucidando la penna nera. Guarda come parlo di penne nere alpini, mi torna la voce. La penna nera per il raduno, dove? Pordenone, 9 maggio. Alessandro Milan è un eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.